volta si torna a parlare del cosiddetto caso Moro, con un'altra verità, anche questa inoppugnabile a detta di chi insomma l'ha stesa su ben due libri e poi da chi l'ha ripresa in un lavoro teatrale. Parliamo del lavoro teatrale di Ulderico Pesce, di cui adesso mi scuso ma mi sfugge il nome, eccolo, Moro, scritto con la minuscola, La strage di Via Fani, lavoro teatrale che è di Ulderico Pesce ma anche di Ferdinando Imposimato. Ferdinando Imposimato, giudice del Tribunale di Roma, che ha scritto appunto due libri e poi ha collaborato alla stesura di questo testo teatrale che a questi due libri si richiama, per appunto dare la sua versione, l'ennesima, di quello che successe quel giorno a Via Fani e nei 55 giorni che seguirono nel 1978, quindi dal 16 marzo del 78 fino al 9 maggio di quell'anno, che seguirono appunto il rapimento di Moro e poi la sua uccisione da parte delle Brigate Rosse. E per entrare, diciamo, nel merito di questa, non tanto della vicenda in sé, perché... Scusami, ne parliamo perché da questi microfoni qualche giorno fa, non solo per questo, ma insomma c'è stato anche una breve intervista proprio a uno degli autori, Ulderico Pesce, che ha parlato appunto di questo lavoro che è stato di recente rappresentato a Roma. Sì, e in quella circostanza che cosa è venuto fuori? Che senza troppe perplessità, diciamo, da parte soprattutto di Ferdinando Imposimato, che ha scritto i due libri, e poi, diciamo, di chi ha ripreso la trama di questi due libri trasferendola in una rappresentazione, e si dice senza mezzi termini che Aldo Moro è stato ucciso dallo Stato, che di per sé è un'affermazione che ha, diciamo, una verità generalistica, potremmo dire, no? Nel senso che non è una novità che, diciamo, le valutazioni di carattere politico già all'indomani dell'uccisione di Aldo Moro mettevano in conto che dentro le istituzioni ci fossero state atteggiamenti per cui non solo non si era fatto nulla per salvare la vita di Aldo Moro, e questo era sintetizzato dalla linea dalla cosiddetta linea della fermezza, che rifiutava qualsiasi ipotesi di trattativa con le Brigate Rosse per la salvezza di Aldo Moro, ma anche addirittura, diciamo, di stranezze di comportamento che avevano fatto suscitare il dubbio che la fine fosse di Moro fosse segnata, perché politicamente questo tornava a certi conti, faceva tornare certi conti. Ora, un conto è presentare la cosa in questi termini, un conto è che questa tesi, o meglio che a questa tesi vengano piegati poi delle risultanze, diciamo così, investigative, tra virgolette, fatte più personalmente dal giudice, dall'ex giudice, non è più giudice, insomma, Ferdinando Imposimato, che dalle risultanze, diciamo così, delle inchieste giudiziarie, le quali, se non ricordo male, sono arrivati al Moro 6. Insomma, ci sono state sei, forse sette, adesso non ricordo con esattezza, sono state veramente tante le inchieste giudiziarie su questa cosa, reiterate nel tempo, ormai sono passati dal 78 a oggi 35 anni. Quindi la cosa che ci ha sconcertato, insomma, nel sentire questa intervista per radio erano, diciamo, la sicurezza con cui venivano rappresentati questi nuovi elementi cosiddetti di prova da parte di Imposimato, che ha scritto appunto due libri, e poi diciamo, da chi di questi due libri ne ha fatta la rappresentazione. E questi elementi di prova, insomma, meritano una minima valutazione, diciamo riscontro, per quello che possiamo fare in una breve trasmissione, ma soprattutto quello che ci premeva di sottolineare e di tentare di illustrare meglio è che il contesto entro cui Ferdinando Imposimato colloca tutta questa sua ricostruzione è un contesto che vede assolutamente estraneo il Partito Comunista Italiano, anzi alla vicenda, e lo vede addirittura quando compare in veste di vittima. Ovviamente essendo la vittima principale e vera, insomma, Aldo Moro e gli uomini della scorta come vittime materiali, fisiche, diciamo, di quella circostanza, di quella di quel sequestro, di quell'azione di sequestro, ma come vittima politica il Partito Comunista Italiano, perché la tesi è che Aldo Moro era quello che voleva aprire ai comunisti fino al punto di portarli nel governo. Con l'uccisione di Aldo Moro tutto questo viene messo non solo in discussione, ma viene proprio completamente abbandonato. I comunisti non andranno al governo e questo è, diciamo, la ragione per cui secondo la logica consueta, che in Italia è stata usatissima, dell'a chi giova, a chi giovava una situazione del genere. E allora qui vengono fuori le ipotesi che in questi due libri sono abbondantemente, almeno dal punto di vista dell'autore, suffragate, insomma lui crede di suffragarle con una narrazione di circostanze, di episodi che lui mette insieme in modo concatenato, per cui qui c'erano due grandi attori di carattere internazionale, Stati Uniti e Unione Sovietica, più gli attori locali, altrettanto importanti, nelle figure principalmente di Giulio Andreotti e Francesco Cossiga, che hanno tramato complessivamente insieme affinché Aldo Moro venisse ucciso. Gli Stati Uniti perché non volevano l'apertura ai comunisti e, come dice espressamente, insomma, per tutelare gli interessi dei petrolieri americani, addirittura c'è questo tipo di affermazione. E d'altra parte l'Unione Sovietica, attraverso i suoi tentacolari servizi segreti, in particolare il KGB, manca a dirlo, perché voleva impedire il definitivo distacco del Partito Comunista Italiano dalla madre patria sovietica e quindi contrastare non solo il cosiddetto eurocomunismo, ma in particolare, diciamo, l'entrata nel PC insieme al governo, insieme alla Democrazia Cristiana. Allora, intanto diciamo subito che il PC al governo insieme alla Democrazia Cristiana ci è andato, ed esattamente ci è andato in quel periodo lì, perché il governo di unità nazionale, che fu varato l'8 febbraio del 1978, con a capo, incaricato nuovamente dopo essere stato dimissionario il 16 gennaio 78, il governo in carica in quel momento era presieduto da Giulio Andreotti, rassegna le dimissioni e immediatamente dopo il presidente del Consiglio gli ridà un'altra volta l'incarico, il presidente della Repubblica, che era Giovanni Leone, gli ridà l'incarico di formare un nuovo governo. Le cose erano già abbondantemente maturate e poi le vedremo, insomma, con spunti, insomma, dettagli particolari tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana. Erano molto avanti i rapporti, per cui già l'8 febbraio Giulio Andreotti incontra una delegazione di responsabili del Partito Repubblicano, del Partito Liberale e del PC, per il quale, per il Partito Comunista ovviamente Enrico Berlinguer, conferma all'uscita dell'incontro, un'intervista pubblica, insomma una dichiarazione pubblica, l'esistenza di un accordo sia sulla formula che sia i contenuti, accordo che poi sarà definitivamente sancito l'11 marzo del 1978 con la formazione del nuovo governo, insomma con l'appoggio non più esterno ma proprio con l'adesione, anche se non era entrato fisicamente con sue personalità nel governo, con l'adesione del Partito Comunista Italiano. Quindi il PC al governo ci va, che poi non ci sono diciamo così i suoi rappresentanti in figura di ministri eccetera eccetera. Questo è nell'ordine delle cose del tempo, ovvero dei motivi di opportunità che comunque lo stesso Berlinguer aveva già riconosciuto da tempo, già un paio d'anni prima, insomma, in diverse circostanze aveva capito l'inopportunità di un ingresso specifico, ma aveva giudicato e anzi aveva premuto abbondantemente perché si arrivasse a questo governo di unità nazionale, e che quindi chiedeva l'ingresso nella stanza dei bottoni, e questo effettivamente avvenne. Quindi diciamo, se una delle tesi fondamentali è quello di ostacolare l'ingresso attraverso l'uccisione di Moro dei comunisti al governo, questo non avvenne, non si è dato, perché i comunisti al governo ci sono andati, e ci sono andati tra l'altro proprio con un presidente del Consiglio che questa tesi di Imposimato additano come, Andreotti è stato chiamato il grande Satana più di una volta, ma in quella circostanza, insomma, per questa circostanza Imposimato lo addita come responsabile, uno dei responsabili dell'uccisione di Aldo Moro, insieme morale politico, insieme a Cossiga, insomma. Ma invece aggiungerei anche che il giudizio che viene dato, almeno che è stato dato da Pesce nell'intervista di qualche giorno fa alla radio, era politico su questa possibilità, come per lui era, ma abbiamo visto che poi in realtà si è trattato di un appoggio esterno, ma di un appoggio esterno al governo, avrebbe rappresentato un qualcosa di estremamente positivo, l'ingresso delle masse popolari alla guida del paese. E sicuramente non crediamo che il PC dell'epoca avrebbe rappresentato cioè la sua partecipazione al governo avrebbe rappresentato l'ingresso delle masse popolari all'interno del paese e grandi cambiamenti, soprattutto anche perché non dimentichiamoci del ruolo che il Partito Comunista ha avuto l'anno precedente, quindi nel 77, quando queste masse popolari, ed è innegabile che se in forme diverse, hanno comunque manifestato in tutto il paese, determinando l'ultimo forse dei grandi movimenti veramente anticapitalisti di questo paese, e come il PC assunse proprio la guida diretta della repressione nei confronti di questo movimento, fino a far venire un membro del Comitato Centrale, nonché segretario generale della CGIL, all'Università di Roma, per chiudere a suo modo appunto questa stagione con quello che poi ne conseguì. E di questo hai fatto bene, insomma, a puntualizzare, cioè cercheremo proprio di darne conto puntualmente, perché ci sono dei passaggi concreti che nascono ben prima, diciamo così, dei contorni che portano poi alla vicenda Moro, cioè nascono già nel 1976, per essere chiari, quindi due anni prima, che un anno prima del 1977, data fatidica, e due anni prima dell'azione di sequestro e di Aldo Moro, uccisione della scorta e poi successiva uccisione anche di Aldo Moro. Cosa dice, no, nei punti salienti, perché poi alla fine uno si domanda anche con curiosità, un ex giudice porta delle prove nuove, degli elementi di verità, come vengono su questa vicenda, uno ne è anche perlomeno incuriosito, no? Anche se, ripeto, le 6-7 inchieste che ci sono state sul caso Moro, che hanno reiterato nel tempo commissioni parlamentari, non va dimenticato neanche questo, insomma, di elementi veri di novità non sono riusciti a portarne, nel senso che sospetti e diciamo riflessioni di tipo congetturale, cioè che portano a, sul filo del ragionamento più o meno logico, a dire ma allora forse, insomma, lasciare punti interrogativi ce ne sono tantissimi ed è fuori di dubbio questo, però ripeto, presentare certe cose come prove di verità inconfutabile fino al punto di poter affermare così con una certa sicumera anche che rivolgendosi a un ipotetico pubblico uditorio di sinistra anche radicale, dice bisogna che anche le persone di sinistra radicale se ne rendano conto, insomma tutta questa storia quasi del sequestro dell'azione condotta dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 è frutto di un complotto internazionale, è frutto di una strategia di un certo tipo che era volta esclusivamente a impedire l'ingresso dei comunisti nel governo. Questa è un po', insomma, no, l'architrave su cui poi si diramano, e nel libro, per esempio, ultimo di Ferdinando Imposimato, leggendo solo i capitoli, cioè non c'è tempo né possibilità di addentrarci, insomma un libro è un libro, e lo spettacolo che si rifà non tanto a questo libro quanto al precedente che Imposimato ha scritto insieme a Sandro Provvisionato, doveva morire appunto, e quest'ultimo libro suo che si chiama I 55 giorni che hanno cambiato l'Italia e così via, insomma ha un antefatto dove nell'antefatto addirittura si parte da Kennedy e l'omicidio Kennedy, dei due Kennedy, non solo di John Fitzgerald ma anche di Bob Kennedy, per costituire delle analogie. Lì si paventa una unione internazionale tra massoni d'oltreoceano e massoni europei, in particolare italiani, quindi insomma vengono evocati tutti i più grossi fantasmi che in qualche caso sono anche si sono anche materializzati, è fuori di dubbio, ma insomma qui vengono veramente evocate queste sigle, dalla mafia alla massoneria, ovviamente ai servizi segreti eccetera eccetera, che stanno intorno a queste vicende e diciamo così ne costituiscono proprio lo scenario entro cui si muovono i personaggi. Quindi c'è un antefatto che parla di questo, c'è un capitolo dedicato alla pista sovietica che si porta dietro poi tutto il sottocapitolo della RAF e della Stasi, perché c'è anche dovizia, diciamo così, di racconto su questo ruolo che avrebbero avuto presuntamente, ripeto, qui prove non ce ne sono mai state, non c'è mai stata evidenza. E poi per quanto riguarda lo scenario italiano, chi sapeva del sequestro, con una tesi che dice che la casa di Aldo Moro, la casa via Montalcini dove era stato portato Aldo Moro, era stata già individuata, addirittura c'è un lunghissimo racconto di un gruppo di militari di leva, insomma, no? Che viene portato appena arruolati, che viene portato dalla campagna a Roma per svolgere servizio di sorveglianza, anche se servizi, diciamo così, nell'ambito della sorveglianza più semplici, ma che viene proprio incaricato svolgere una serie di mansioni che servivano a tenere sotto controllo, a monitorare l'attività, le persone che entravano in questa casa, essendo questa casa di via Montalcini già individuata, insomma, e Posimato dice questo lo dà per certo, con racconti che lasciano piuttosto perplessi. Primo fra tutto, insomma, a me personalmente lascia perplesso che per un'azione del genere i servizi segreti impieghino militari di leva appena arruolati, insomma, no? Già questo lascia abbondantemente perplessi. E poi, insomma, prosegue il racconto su una si articola su tutti questi, diciamo così, dettagli anche importanti, ma che insomma si fa fatica poi a non solo a seguire, ma per chi non si è occupato all'epoca della vicenda, chi non l'ha seguita anche giornalisticamente eccetera eccetera, ma si fa fatica a trovare a trovarne l'effettivo riscontro, perché di fatto, insomma, quando Imposimato fa questo tipo di racconti, nelle fonti che cita e nelle citazioni che fa, a volte cita se stesso, no? Mette la nota di pagina e cita se stesso, mail scambiata con, quindi insomma se stesso non può mai essere una fonte, insomma. Non solo, ma cita per esempio all'inizio del libro I 55 giorni che hanno cambiato l'Italia, cita una sua conversazione con un presunto agente CIA e a un ricevimento, non so, alla residenza dell'ambasciatore americano a Villa Taverna a Roma, e c'è una nota, tu vai a vedere, dice appunto conversazione, insomma non mi sembra, non, nessuno vuole mettere in dubbio, ci mancherebbe, però insomma non è un modo corretto di, la nota è un riscontro, no? È sempre un riscontro di fonte, quindi semmai ci devi mettere che hai concordato questa citazione con la persona con cui hai fatto questo colloquio, eccetera. In genere si fa così. Tanto per citarlo, a un certo punto, tra queste fonti che lui utilizza, a me ne hanno colpite due. Una è Raffaele Farina, che è l'agente Abete, quello che... Betulla, sì, ma sbaglio sempre tra Abete e Betulla, insomma, che venne fuori, insomma, poi mi sembra radiato, no? Sì, cioè, era un giornalista che per questo motivo fu, non mi ricordo adesso la vicenda in cui fu coinvolto, insomma, una vicenda, insomma, abbastanza squallida, insomma, no? Che dice molto sul personaggio, e Imposimato, insomma, no? lo cita come fonte autorevole, lo usa abbondantemente. E in altre circostanze, ciò che usa, per esempio, per tutto quello che riguarda la cosiddetta pista sovietica, cita il dossier Mitrokhin. Il dossier Mitrokhin è altra fonte piuttosto ambigua, perlomeno, perché è la fonte con cui in tempi recenti venne fuori l'accusa, fu montata l'accusa al PD, al Partito Democratico, della scalata dei servizi telefonici, le banche, tutte queste cose qui, insomma, dove si accusavano esponenti del Partito Democratico di aver operato sul piano anche internazionale tutta una serie di operazioni finanziarie poco pulite, eccetera, eccetera. Cosa che mi sembra fu sconfessata proprio da una sentenza, e qualcuno fu anche condannato per calunnia, insomma, che proprio per aver utilizzato spregiudicatamente questo dossier Mitrokhin. All'epoca mi sembra fu Guzzanti Paolo a essere presidente di questa commissione, no? Che insomma mi sembra che ci abbia rimesso, insomma, sicuramente in dignità, non so se concretamente sul piano giudiziario, perché insomma tutto questo si è rivelato abbondantemente fasullo. Il che non significa poi che dentro un dossier di quelle fatte, tra le tante cose che ci dicono, magari ci possono essere pure delle notizie vere, però utilizzarlo come fonte certa a fronte, perché Imposimato i libri li ha scritti adesso, uno l'ha scritto nel 2008 mi sembra, e vabbè, sono già 5 anni, ma l'ultimo che scrive adesso, che di pochi mesi fa, di quest'anno, in cui ricita abbondantemente queste fonti, dandole proprio credito, come l'agente Betulla, si può dar credito a un personaggio squalificato come l'agente Betulla o a un dossier Mitrokhin che proprio in sede di magistratura se n'è perlomeno acclarata la problematicità, l'infondatezza, insomma, no? Quindi quelle cose da prendere con le pinze, proprio perché insomma scritte non si sa da chi, per quali motivi, con quale finalità. Ecco, quindi intanto c'è da dire che sul piano della così della fondatezza delle fonti citate e anche della ricostruzione che fa, insomma anche della sua propria capacità di essere autorevole e credibile, prende delle cappelle mostruose Imposimato, no? Per esempio nella pista sovietica parla a un certo punto di un agente, Sergei Sokolov, che insomma lo pone come fulcro della vicenda Moro, perché questo era un personaggio che era venuto in Italia come studente, si era scritto dei corsi che faceva proprio all'università, che faceva proprio Aldo Moro in quanto professore, lui li seguiva attentamente, e invece poi si è rivelato essere un agente del KGB che però non è stato sì, c'è una telefonata, quindi mi interrompo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Innanzitutto grazie della trasmissione, perché non se ne parlerà mai abbastanza di quel periodo, di quegli anni e di questa storia. Però vi volevo chiedere una cosa. A parte Imposimato, che dal 78 era convinto che, come dire, che ha messo sotto torchio tutto Montemario, questo rapimento Moro, a parte questo, ma voi non vi è venuto il dubbio che, al di là delle intenzioni delle persone, dei compagni che hanno sequestrato Moro, non ci sia stata la possibilità di una eterodirezione? Non vi viene? Nel senso, non chiaramente con i compagni coscienti di quello che gli stavano a fare, ovviamente, no? Ma che qualcuno ci abbia giocato forte. Ora, non per carità, il caso Mitrokhin, queste sono stronzate, ovviamente, sono stati tentativi, vecchi tentativi di mischiare le carte, però sinceramente la storia è rimasta molto molto molto molto non detta, secondo me. Forse fanno pure bene, non lo so, però un po' di dubbi a me mi sono venuti, tenendo conto che negli anni 50 nel PC, nel comitato centrale, c'era uno da CIA, nel PC degli anni 50, voglio dire. Che dite? Hai anticipato quelle che, non c'è nessun problema. Hai anticipato quelle che in buona parte erano le nostre conclusioni a cui volevamo arrivare. No, con tutto, per carità di Dio, non mi metto, cioè assolutamente non penso che gente che ha rischiato la vita, ha fatto delle scelte pesantissime, pesantissime per la sua vita, per l'organizzazione che rappresentava, eccetera, non penso assolutamente che siano state pedine. Questo proprio è una cosa infame. Il problema è che in tanti casi ci siamo trovati, appunto, con noi dei pezzi di merda. L'agente Betulla, se non erro, non so se mi confondo, ditemi voi, ma non è quel porco di Renato Farina? Sì, io l'ho chiamato Raffaele Farina sbagliando, dici bene, Renato Farina, porco, esatto. Porco di Renato Farina, sì, agente dei servizi segreti, che stava in Parlamento con Forza Italia. Esatto. Che ha pure, come dire, ora non mi ricordo tutto, ma credo che pure a Genova, nella morte di Carlo Giuliani, lui abbia detto qualcosa di terrificante, sì. O abbia fatto qualcosa di terrificante. Se questi sono, come si dice, i testimoni, o le tesi, se quelle che porta avanti Imposimato sono le tesi di Renato Farina, veramente siamo arrivati proprio al di sopra, e oltre. Grazie. Prego. Ciao, ciao. Sì, questa telefonata, no? Che, come dicevo, ci ha un po' anticipato, e noi nel corso di questa nostra valutazione, ricostruzione della vicenda, rispetto a quanto è scritto nei libri e rispetto a quanto è stato rappresentato attraverso questi libri, volevamo arrivare a questo tipo di considerazioni, insomma, che un conto è dire che su una vicenda come quella del sequestro, dell'uccisione della scorta e poi dell'uccisione successiva di Aldo Moro dopo 55 giorni per opera delle Brigate Rosse, ci sia stato un tentativo di sovradeterminare, di strumentalizzare, di infilarsi in mezzo di servizi segreti e quant'altro, eccetera eccetera, non si può negare. Il dubbio è più che legittimo e in qualche caso anche non dico accertato e convalidato, però insomma è forte, è fortissimo. Ma questo è un altro discorso, insomma, questo è completamente diverso da quello che vuole fare apparire Imposimato nei suoi libri, perché questo significa rovesciare proprio la realtà, darne un'altra interpretazione. E soprattutto quello che, come dicevo, ci preme di sottolineare è che in questa ricostruzione, dal punto di vista politico, le cose non sono andate come dice Imposimato, perché ricostruisce quel periodo come una passeggiata, che era quella per cui diciamo l'avanzata delle masse popolari che si rappresentava nella avanzata elettorale del PC. Ricordiamo tutti che nel 1976 è l'anno storico in cui il PC raggiunge alle elezioni politiche il 34,4 mi sembra, insomma, numero di questo tipo alle elezioni, e la Democrazia Cristiana tiene ancora, ma insomma è pressata perché sta, mi sembra, al 38, 4-5 punti avanti, e che addirittura l'anno successivo alle elezioni europee c'è il sorpasso, mentre invece poi alle elezioni politiche del 1979, 3 anni dopo, il PC perde di nuovo. Allora, questo è l'arco temporale in cui questa ricostruzione non torna. Perché sostanzialmente cosa vuol dire Imposimato? Che questa grande avanzata è stata fermata dal fatto che è stato ucciso, eliminato, tolto dalla scena uno dei cardini per cui questo compromesso storico, che poi si è viceversa realizzato nei fatti concretamente già a metà degli anni 70 e progressivamente, formalmente col governo di cui parlavo prima, varato da Andreotti nel febbraio del 78, proprio formalmente, anzi scusate, l'11 marzo 78, quindi pochi giorni prima del rapimento di Aldo Moro, neanche una settimana prima, e che se il PC perde poi questo consenso, è cosa che non ci si è mai riflettuto, non è perché viene meno Aldo Moro. Questo è il punto, no? che proprio stona, che distorce, insomma, i fatti, la storia, gli avvenimenti, eccetera. Ma il PC perde questo suo consenso che aveva guadagnato proprio per la gestione che ha avuto in quegli anni, non solo del rapimento Moro, la fermezza, la politica repressiva di cui daremo abbondantemente conto, ma anche per la politica che ha seguito di sacrifici verso le masse lavoratrici, politica complessivamente restrittiva di quelli che erano i bisogni e aspirazioni che molta gente aveva riposto proprio nel Partito Comunista dandogli il voto. Cioè quell'anni lì, l'anni 70, un crescendo di iniziative sociali, politiche, di lotta, di rivendicazioni, che in qualche modo il PC ne raccoglie i frutti. Tant'è appunto che avanza, no, elettoralmente, se vogliamo usare il parametro del voto come termometro, indicatore in qualche modo di quello che è l'umore della società. Il PC ancora queste cose le raccoglie, perché la spinta era forte e in qualche modo l'ha raccolta nonostante tutto, perché poi non è che fosse questo diciamo partito di lotta così spietata, anzi andava coi piedi di piombo, insomma, no, decisamente, però comunque le raccoglie. Quando poi la gente che l'ha votato si rende conto che questo andata al governo del Partito Comunista si concretava in una politica di sacrifici estremi, e ne parleremo degli accordi sul costo del lavoro e tante altre cose, e di una politica repressiva, coercitiva anche delle libertà individuali, con un atteggiamento estremamente rigido nel caso specifico su Aldo Moro, ma è giusto citare tutti i provvedimenti repressivi votati e anzi sollecitati dal Partito Comunista Italiano, che furono tantissimi, con una riedizione della legge reale, non chiamata così ma in un altro modo, che imponeva che concedeva insomma ancora di più alle forze di polizia, alla magistratura, introduzione dei reati nuovi, fermi preventivi, eccetera eccetera. E poi con l'atteggiamento, diciamo, inumano, vogliamo usare questo termine, insomma, nei confronti di Aldo Moro. Ma perché questo deve essere dimenticato? Perché lì si è manifestato il massimo dell'etica del Partito Comunista, perché lo Stato, eccetera eccetera. Beh, le persone hanno individuato questa manifestazione di massima etica, di massima identificazione con lo Stato, con la sua solennità, come viceversa un atto diciamo, non voglio dire, un attimo umano, diciamo un atteggiamento che poteva essere benissimo evitato, e potevano trovarsi altre soluzioni che fossero nel piano della trattativa, non trattativa, ma che fossero comunque finalizzate a salvare la vita di Moro. Ecco, questo viene completamente obliterato, e quindi Moro l'ha ucciso, Andreotti e Cossiga della Democrazia Cristiana, quindi si rimanda tutto a una faida esterna e non si giudicano gli altri attori che pure c'erano, primo fra tutti il Partito Comunista, ma insomma è giusto citare anche il Partito Socialista dell'epoca, che si era viceversa speso per una soluzione diversa, e il quadretto torna, ovvero si forzano la realtà delle cose, si forzano i fatti, si forzano gli avvenimenti storici per suffragare la propria tesi, che è quella appunto che dicevamo all'inizio. Adesso magari sì, ci fermiamo un attimo per essere precisi, vogliamo leggervi i dati di quelle elezioni del 76. Alla Camera dei Deputati la Democrazia Cristiana è al 38,71, il Partito Comunista al 34,37, guadagna il 7,22 e la Democrazia Cristiana rimane ferma, guadagna lo 0,05, perde 4 seggi e il Partito Comunista ne guadagna 49. Sostanzialmente simili le percentuali anche al Senato. Il Partito Socialista ha 57 seggi, Democrazia Proletaria 6, se la matematica non ha un'opinione, in un scenario fantapolitico si poteva anche costituire un governo PC-PSI Democrazia Proletaria, volendo proprio appunto fare della fantapolitica. Ma queste non erano assolutamente le intenzioni del PC, al di là della strategia del Partito Socialista, perché insomma all'indomani del golpe in Cile la linea del Partito Comunista fu molto chiara, la linea che non si governava col 51%, ma bisognava fare un compromesso più o meno storico, e quindi insomma, perché l'esperienza pure democratica, no? Elettorale del Cile aveva dimostrato che questo non era possibile, almeno secondo l'analisi del Partito Comunista di allora. Allora, riprendendo il ragionamento che stavamo facendo, siamo andati un po' avanti, poi torniamo indietro, insomma scusate la non linearità, però insomma è giusto pure che a fronte di una telefonata che entrava nel merito della questione fondamentale, insomma almeno di uno degli aspetti fondamentali, insomma rispondessimo, e la risposta è, come detto, coincideva abbastanza con quello che diceva la compagna per telefono. Allora, credibilità dell'autore, imposimato, insomma, no? Non personale, ma di quello che scrive. Lasciamo stare la persona, di quello che scrive. A un certo punto, stavo dicendo di questa pista sovietica, citando questo Sergei Sokolov, che studente, agente del KGB, però poi dallo stesso dossier Mitrochi, già una prima condanna. Allora, si dice, l'Imposimato dice, questo era un agente del KGB che seguiva Moro, quindi gli era stato messo proprio alle costole. Moro se n'era pure accorto, ne aveva parlato con i suoi collaboratori, aveva pure detto, da persona acuta, diciamo, dice meglio che sta qui e almeno lo teniamo meglio sotto controllo, perché a sua volta era controllato dai servizi segreti italiani, quindi meglio che ci segua le lezioni piuttosto che sparisce e non sappiamo che fa. Bene, lo stesso dossier Mitrokhin, che per altri versi Imposimato prende come riferimento credibile, dice quel dossier Mitrokhin, quando parla di Sokolov, che questo prima del 1981 non è arrivato in Italia. Quindi, insomma, qui delle due l'una: o Sokolov è tutta un'invenzione, oppure il dossier Mitrokhin non è attendibile, e allora, insomma, è una sua contraddizione. Ma poi ci mette del suo Imposimato, perché a pagina 82 del libro Sokolov è presentato come capitano del KGB, a pagina 89 è promosso a colonnello, diventa colonnello del KGB, no? Allora non è una svista, un errore di stampa, sì, forse, però insomma queste cose sono decisive, così come più avanti, parlando di un corpo speciale che aveva costituito lo stesso Cossiga, dice che questo corpo speciale, il Comsubim, che sono incursori della Marina, a un certo punto viene nell'ultima parte dei 55 giorni viene spostato precipitosamente dalla sua base di Verniano, provincia di Viterbo, a Roma, trasportato in elicottero. Allora basta fare una verifica, sto paese Verniano non sta in provincia di Viterbo ma sta alla Spezia, ed è comprensibile perché gli incursori della Marina a Viterbo non si addestrano, è difficile che si addestrino, insomma, le cose, no? Quindi magari anche sul qui... lago, ma qual è, no, il lago, insomma, vicino, ma è proprio una cosa, insomma, direi che a questo livello è dove sia nato e dove sia cresciuto il Comsubin, addestrato eccetera eccetera, è abbastanza noto, quindi possiamo considerarle ancora sviste, però insomma sono sviste che pesano, ma quelle più pesanti sono viceversa di carattere deduttivo. Quando si dice che, e lo dice anche, questo lo avalla anche Ulderico Pesce in un'intervista che ha fatto a pagina 21, ad Angelo Pizzuto, scusate, articolo 21, ad Angelo Pizzuto di articolo 21, quando parla per esempio del terrorismo, no? Dice: qualche mese prima delle stragi di Via Fani accade una cosa ancora più inspiegabile e viene smantellato l'ispettorato antiterrorismo diretto da Santillo, che aveva raggiunto risultati eccellenti contro i terroristi e contro la loggia massonica P2. Fatto fuori Santillo e la sua squadra, a indagare sul terrorismo prima del rapimento di Moro rimaneva solo Lucigos, che era alle strette dipendenze del solito ministro Cossiga. Allora, qui non, prima confutazione, le cose non stanno così. Le cose non stanno così perché della riforma dei servizi segreti e quindi dello smantellamento delle vecchie unità, il più strenuo fautore fu proprio il Partito Comunista Italiano, che insomma insisteva perché ci fosse un coordinamento, dal suo punto di vista tutto legittimo, tutto comprensibile, non è questo il punto è presentare le cose in modo distorto, cioè il Partito Comunista insieme alla Democrazia Cristiana come partiti maggiori del Parlamento, ma d'accordo anche gli altri più o meno, arrivano abbastanza presto a esattamente il 2 novembre del 76 il governo, allora presieduto ancora governo Andreotti, insediatosi in quell'anno, presenta il disegno di legge sulla ristrutturazione dei servizi segreti, su sollecitazione, accordo, ne hanno discusso abbondantemente il Partito Comunista Italiano e Democrazia Cristiana. Quindi è dal 76 che questa storia va avanti e si concretizza esattamente il 24 ottobre 1977 è varata la legge numero 801 che riforma i servizi segreti e restituisce al Presidente del Consiglio la carica di autorità nazionale per la sicurezza, e questo con l'accordo del Partito Comunista Italiano, anzi con la sua esplicita sollecitazione. Quindi questa è proprio, questa non è una svista, insomma, questa è una distorsione. Così come più avanti, sempre in questa, leggo dall'intervista di Pesce, si dice, no? Secondo alcuni documenti in possesso del giudice Imposimato, è probabile che gli stessi uomini sapessero della prigione di via dei Montalcini mentre Moro era ancora vivo. Perché gli inquirenti che interrogano alcuni inquilini dello stabile dove è prigioniero Moro non lo comunicano al giudice Imposimato? E qui siamo nei meandri di quelle cose che rimangono, diciamo così, piene di dubbi su tutte le inchieste che ci sono state. Ma questo, ripeto, nessuno lo confuta che ci siano delle zone d'ombra, eccetera, eccetera. È che non tornano i conti politici che fa Imposimato, perché subito dopo dice: ma la denuncia più consistente che Ciro Iozzino, che è uno degli uomini della scorta, il fratello, scusate, di uno degli uomini della scorta e che è, diciamo, coprotagonista in qualche modo di questa rappresentazione, ma anche nel libro, dice: la denuncia più consistente che Ciro Iozzino fa nello spettacolo riguarda le rivelazioni di tale Mr. Pieznik, un esperto di terrorismo mandato segretamente in Italia dal governo americano per la gestione del caso Moro. Bene, questo Pieznik, che è citato anche nel secondo libro di Imposimato, altri non è che sì un rappresentante del governo dei servizi americani, sicuramente, in particolare era stato consigliere di Kissinger, e quindi un uomo di Kissinger che viene diciamo conglobato, viene fatto stare dentro il comitato ristretto che creato da Andreotti Cossiga per la gestione di tutto il periodo del sequestro Moro. Allora, a questo Pieznik, che qui viene detto presentato in questo modo, nel libro successivo di Imposimato gli si fa gli si mette in bocca, insomma, si riportano delle sue dichiarazioni alla fine di questo Pieznik, che a un certo punto, verso la fine, prima della definitiva uccisione di Moro, si ritira da questo suo incarico dentro il Comitato dei Servizi, perché dice che lui stesso si rende conto che a volere Moro morto erano proprio alcuni politici italiani. Allora, qui delle due l'una: o Kissinger, che notoriamente era anticomunista, che non ha mai voluto, insomma, avvicinamenti col Partito Comunista Italiano, ci aveva due facce, e l'uomo di Kissinger pure, o se no non si capisce perché questo qui deve poi scaricare sui politici italiani il fatto che Aldo Moro viene ucciso. Allora non è vero che lo volevano morto anche i servizi segreti americani, quella parte della politica statunitense che non voleva l'avvicinamento, grossa parte, i petrolieri, tutte questi fantasmi che ci stanno dietro, la massoneria, che ne so, che non voleva questo avvicinamento del PC al governo, perché è la stessa persona. Allora non si può presentare la stessa persona in un modo e fargli poi dare una conclusione diversa per piegarla alle tesi di partenza, e cioè che gli americani volevano Moro morto, anche loro insieme a Andreotti e Cossiga, perché è Pieznik stesso, questo agente infilato là dentro apposta per controllare la situazione che andasse in un certo modo, che dice: io me ne vado perché qui non si può salvare Moro, si vuole ammazzarlo. E allora doveva essere anche suo interesse, no? Secondo la tesi di partenza, quindi inspiegabile da questo punto di vista e estremamente contraddittorio. Però diciamo qui due parole credo vadano dette anche su Moro, no? Perché altrimenti, diciamo, anche qui si fa, al di là della sua vicenda personale in quella circostanza, giudicando il politico, si fa diciamo della cattiva informazione, perlomeno, perché diciamo che Moro fosse questo assoluto e convinto assertore dell'apertura ai comunisti, secondo me, io do questo giudizio, è discutibile anche dai fatti dell'epoca fino a quando è stato vivo, per le sue dichiarazioni, per il suo modo di presentarsi e così via. Intanto perché diciamo la sua storia stessa non era affatto incline a accreditare questa sua così apertura mentale da dire è giunto il momento che questo paese sia governato anche da altre forze e non possiamo più ignorare questo. Questo semmai era il punto di arrivo a cui può essere giunto, e non solo lui, perché da questo punto di vista ci stava anche Andreotti e ci stava proprio lo stesso Cossiga, che più volte hanno dato diciamo prova di apertura e anche di legittimazione nei confronti del Partito Comunista, ma perché era dettato dalle circostanze, perché certamente il paese dalla fine della guerra, dagli anni 50 eccetera eccetera, dopo la batosta subita dalle sinistre nel 1953, con gli anni 60 si era fortemente ripreso. Certamente Moro è il presidente del consiglio del primo centrosinistra, certamente è l'uomo che impersona questo, ma ancora più di lui è Fanfani, se dobbiamo dire la verità, quello che apre al centrosinistra, essendo stati loro due inizialmente nella stessa corrente che era Iniziativa Democratica, si chiamava, e che nel 59 si spacca questa corrente e si costituisce invece la corrente dei Dorotei, cosiddetta perché il convegno che fecero si fece a Santa Dorotea, che sfiduciarono Fanfani, e tra questi c'era proprio Aldo Moro. Quindi negli anni successivi al 60, quindi 61-62, dove inizia questa apertura di centrosinistra, ovvero ai socialisti, al pentacolore, al pentapartito eccetera eccetera, questo viene fatto in funzione anticomunista, sempre, non va mai dimenticato. Non è vero che questa è l'apertura e l'uomo e Moro quindi impersonifica l'uomo dell'apertura al PC. Moro impersonifica l'uomo che prende atto, il politico della Democrazia Cristiana, che prende atto del cambiamento di forza che ha il suo partito, perché cala nei voti e ne crescono altri, poco il PC, ma comunque costante nella sua crescita fino al massimo del 76, ma cresce anche un po' il Partito Socialista, insomma, questi altri partiti minori, e pur di non aprire, è proprio questo il punto, definitivamente ai comunisti, e quindi a un governo con loro, un appoggio, un dialogo, come si vuol chiamare, vara il centrosinistra, e su questo si verificano, per esempio, c'è la verifica di tutto il discorso delle nazionalizzazioni, in particolare quella dell'Enel, insomma, no? Come frutto di questo accordo, che viene non a caso criticato dall'allora Partito Comunista perché fatta in un certo modo. Ma a parte questi ragionamenti, l'apertura al centrosinistra, inteso l'apertura ai socialisti, ha proprio lo scopo, primo, di tenere ancora fuori i comunisti dall'area di governo e di sganciare i socialisti dall'alleanza col PC. Ma infatti di questo il PC se ne rese assolutamente conto, perché tutte le campagne elettorali, e non solo di quel periodo, sono contro, vabbè, la Democrazia Cristiana, ma contro proprio il Partito Socialista, perché uno dei slogan che si usava era Nenni vuole entrare nella stanza dei bottoni, no? Quindi furono campagne elettorali che avevano come segno proprio l'attacco al Partito Socialista, perché entrava nella stanza dei bottoni. Non è rilevante questo, non per sicuramente anche sui programmi eccetera, ma come a dire che nella stanza dei bottoni non ci si doveva entrare, finché poi non si apre uno spiraglio e nella stanza dei bottoni cosiddetta può entrare anche il Partito Comunista, con tutto quello, insomma, che ne è conseguito. E su sempre sulla figura di Moro, che arriva a essere alle soglie, quindi parliamo del 1976, Moro viene eletto presidente della Democrazia Cristiana, quindi nel momento in cui viene ucciso Moro è presidente della Democrazia Cristiana. L'uomo politico dedicato a gestire i rapporti, non più perché si veniva da una storia di pentapartito ripetuto, di centrosinistra ripetuto fino all'infinito, no? Monocolori appoggiati, non appoggiati, insomma era un continuo, i governi duravano veramente poco. Si poneva questa ulteriore passo, ulteriore necessità, che era l'avanzata consistente del Partito Comunista, e soprattutto c'era ripeto, questa avanzata era il segno che nel paese c'erano un sacco di agitazioni e rivendicazioni, necessità di cambiamento. Ricordiamo ancora il 74, il divorzio, ricordiamo le tematiche anche civili, oltre quella del divorzio, come l'aborto, che poi si concretizzerà nel 77, eccetera eccetera, e tante altre cose, ma soprattutto poi le lotte in fabbrica. Si veniva da un decennio, insomma, ininterrotto di queste e lotte, non solo in fabbrica, diciamo così, di queste agitazioni sociali. Quindi, che avevano strappato anche, come quello per i metalmeccanici, dei contratti molto importanti, con la mediazione proprio del ministro del lavoro, in quel caso Democristiano, no? Don Accattena, altro esponente della cosiddetta sinistra democristiana. E che tra l'altro è uno di quelli che, proprio se mai era da indicare sulla sorte di Moro, come niente, non viene affatto citato da Imposimato, ma invece Versa era uno di quelli che andava più diretto, diceva abbandoniamolo proprio, insomma. Però a parte questo, quindi si pone quest'altra esigenza. Moro viene messo a fare il presidente, viene messo a fare l'anima bella, perché è vero che il presidente è importante, ma insomma il segretario politico in genere è più importante del presidente. E l'incaricato del governo è Giulio Andreotti, quindi è lui che tratta coi comunisti. E già nel 76, a luglio, la prima avvisaglia di questo clima differente e questo approccio diverso con i comunisti si ha quando decade da presidenza del Senato Giovanni Spagnolli, Amintore Fanfani e Pietro Ingrao sono eletti rispettivamente alla presidenza del Senato e della Camera dei Deputati. Quindi un comunista, come Ingrao del resto, tra l'altro della sinistra cosiddetta del partito, viene eletto presidente della Camera. E questo è il primo segnale inequivocabile d'apertura, che il clima è cambiato, che le cose sono cambiate, che quindi questo è nei fatti. E sollecitato ovviamente dal Partito Comunista, non è che è stato un invito, dice beh guarda vieni perché insomma così stiamo, no, era ovviamente sollecitato, cioè l'avanzata anche elettorale faceva sì che il PC avanzasse delle rivendicazioni. Quando poi cominciano le consultazioni, Giulio Andreotti riferisce così nei suoi diari, insomma diari pubblici non riservati, un incontro con Berlinguer, e si dice la gravità del momento, insomma come dobbiamo incontrarci, rapportarci, che aspettativa avete voi, insomma, del Partito Comunista, perché appunto le elezioni si erano pronunciate in un certo modo, questa avanzata forte, eccetera eccetera. E allora Berlinguer fece le sue richieste, e però alla fine Andreotti chiosa così la situazione: Berlinguer mi chiedeva non tanto l'ingresso nel governo, perché si rendeva conto che era improponibile per i condizionamenti internazionali, per una serie di motivi, eccetera eccetera, mi chiedeva solo la garanzia personale di dimettermi se i comunisti fossero stati costretti a ritirare il loro appoggio, che nell'immediato era espresso con l'astensione, ma sperava potesse mutarsi in voto favorevole. Quindi siamo al governo famoso, passato alla storia come il governo dell'astensione. Siamo nel 1976, quindi la collaborazione del PC, insomma da ripetere, no? Per ripetita iuvant per quelli che non capiscono, è Imposimato non è scemo e che non vuole capire, e quindi racconta un'altra storia, è che l'apertura, non solo l'apertura ma la collaborazione c'era ed era perfettamente in atto. Del resto poi c'è la politica del PC, che è quella cosiddetta dei sacrifici, no? Quindi a un certo punto si abbandona completamente nella sostanza, se non magari nella forma, il discorso quantomeno di classe, e si abbraccia completamente l'ideologia dello stare tutti sulla stessa barca, per cui i lavoratori saranno i primi a dare l'esempio, a fare i sacrifici. Insomma, noi questa cosa ce la ricordiamo molto bene, perché proprio appartiene a quel periodo in pieno, e sposata anche per certi versi dai sindacati, dove i lavoratori ricordiamo che negli anni 70 c'è stata una crisi economica molto forte, forse non paragonabile a quella attuale, ma insomma comunque molto forte, e quindi i lavoratori vengono chiamati a pagare la crisi che non hanno provocato. Esattamente così. Dal PC. È esattamente così, tant'è che Andreotti sempre nei suoi diari annota per quella giornata, per quel periodo, dice: io non amavo il termine austerità, figuriamoci insomma se qui c'è da credere Andreotti, ma a parte questo, tuttavia le casse erariali erano vuote, il limite di indebitamento estero abbondantemente superato, tale drammatica situazione non poteva non allarmare anche i rappresentanti dei lavoratori che dovevano collaborare. Le frange estremiste avrebbero certamente tentato di mettere in difficoltà i comunisti, per questo era necessario che il governo si desse carico di spiegare giorno dopo giorno situazioni e provvedimenti, colloquiando attivamente sia con i gruppi parlamentari che con le confederazioni sindacali. Insomma, più chiaro che così, insomma, è difficile, no? E su questo c'è una ribellione effettivamente, come avevano immaginato, su questo c'è questo grande movimento del 77 che mette insieme insomma rivendicazioni le più disparate, ma non nel senso di legittimità, ma nel senso di provenienza da parte di settori sociali diversi. Per quanto riguarda, e questo diciamo trova piena diciamo conferma il 6 aprile del 77. Le note che leggevo prima erano ancora del luglio 76 di Napolitano, ma il 6 aprile del 77 alla Camera si conclude il dibattito sul costo del lavoro con la votazione per la conversione in legge del decreto governativo approvato con 174 voti a favore, 43 contrari e 210 astenuti. Quindi tutto il Partito Comunista, ma non solo, si astiene. Pensate, insomma, no, come si fa a provare? Se uno somma 174 a favore e 210 più 43 fa 253, cioè c'era una maggioranza contro, no? Teoricamente contro questo provvedimento sul costo del lavoro, che era la politica dei sacrifici dell'euro, quella della AMA, eccetera eccetera, quindi tranquillamente si sarebbe potuto rigettare, perché 43 contrari e 210 astenuti fa molto di più dei 174 a favore. E questo dà il segno proprio dell'inglobamento, della collaborazione che ormai il PC dà al governo e alla linea dei sacrifici restrittivi eccetera eccetera, ma ancora di più è emblematico diciamo per sconfessare sempre le tesi di Imposimato, quello che il PC fa sul tema dell'ordine pubblico. 18 gennaio 77, la direzione nazionale del PC approva un documento relativo alle condizioni dell'ordine pubblico, nel quale afferma che la situazione è giunta a punto di rischio intollerabile. Non sono più consentite inerzie, carenze e errori. Occorre una strategia di intervento dello Stato democratico articolata, decisa e tempestiva. E propone di attuare con grande urgenza il coordinamento e l'adozione di forme di direzione operativa unica fra polizia, carabinieri e guardia di finanza, cosa che poi, come ho già detto, era stato presentato pochi mesi prima, il disegno di legge sulla strutturazione dei servizi, che poi viene approvato anche dai comunisti pochi mesi dopo. E ancora da questo punto di vista, e quindi parliamo della repressione, parliamo della collaborazione attiva che il PC dà alla modifica delle strutture di intelligence, alla modifica della polizia, delle sue capacità di intervento, alla repressione e alla, diciamo, individuazione degli elementi sospetti che lui ci mette di persona, insomma, di persona nel senso del partito. Perché 3 novembre 77, su sollecitazione di Ugo Pecchioli, che insomma, per chi se lo ricorda, era l'esponente del PC che più si occupava, più aveva a cuore, diciamo così, la tematica dell'ordine pubblico, e che più era solerte nei suoi interventi nel chiedere appunto forme di repressione dell'attività genericamente detta terroristica, ma c'era di tutto dentro. Insomma, in questa riunione riservata ai quadri comunisti operanti nelle fabbriche e dirigenti locali, che dovranno impegnarsi nel contrasto ai gruppi armati e in genere agli estremisti, il cui resoconto è rinvenuto negli appunti del dirigente comunista dopo la sua morte, e quindi di Ugo Pecchioli. Qui la fonte è l'archivio Luigi Cipriani, per cui lo trovate facilmente anche su internet. Tra Siemens, Marelli, Falche e Alfa Romeo si contano 20-30 elementi arrestati o latitanti per azioni di violenza armata o perché scoperti con armi. È stata segnalata con esempi concreti una deliberata tendenza della UIL a reclutare personale di stampo estremista. C'è fu un periodo in cui si diceva che la UIL, insomma, era ospite del terroristi estremisti, eccetera eccetera. Alla Siemens si segnalano pressioni UILM e anche FIM per introdurre nel consiglio di fabbrica elementi sospetti di legami con le BR, eccetera eccetera. Ricordo, insomma, un documento unitario dell'FLM che girava già prima del 1977 nelle fabbriche del nord, dove si invitavano militanti, quadri intermedi, responsabili, eccetera eccetera, a segnalare tempestivamente persone sospette che si agitavano nel sindacato, che frequentavano le riunioni sindacali, eccetera eccetera. E questo, insomma, è, come si legge da qua, benedetto al massimo, diciamo così, dalla dirigenza del Partito Comunista. E tant'è che anche il 4 novembre a Padova e Venezia si svolgono le sedi rispettive federazioni comuniste e due riunioni aventi gli stessi scopi di quella tenuta il giorno precedente a Milano. Lì c'è Pietro Folena che dice: nella provincia il dissenso verso il PC e in genere l'estremismo appare di marcata matrice cattolica. Ma a parte questo, perché siamo nel Veneto, qui indirettamente si registra che questa politica del Partito Comunista e del sindacato CGIL, impersonato principalmente da Lama, non era niente affatto condivisa dalla sua base e dalla massa dei lavoratori, dei cittadini, eccetera, perché contrastava completamente col bisogno d'aspirazione, diciamo pure di libertà, ma insomma è una parola un po' abusata, sicuramente di miglioramento di condizioni materiali e anche modifiche di quelle che erano, ho citato l'aborto e il divorzio, insomma, ma che erano sul piano dei diritti civili ancora segnavano, no, un punto di vista conservatore indubbiamente. Quindi questo atteggiamento del PC, che era completamente improntato viceversa al sacrificio, alle ristrettezze, alla severità, all'austerità e tutto quanto, non trovava affatto consensi, e questo a prescindere che ci fossero terroristi estremisti o come li si vuol chiamare nelle fabbriche. C'erano perché c'era una società, c'erano perché le condizioni che erano maturate consentivano queste situazioni, perché le politiche, appunto, condotte fino allora dalla sinistra non andavano per niente bene, insomma. Ecco, questo per... Ci fermiamo un momento? Concludo, perché chiudo questa parte, sennò per non riprenderla dopo. Ancora a novembre del 77, Ugo Pecchioli, perché va abbondantemente ricordato, responsabile del PC per i problemi dello Stato, questa era la sua mansione ufficiale, convoca una riunione riservata con i rappresentanti di sei federazioni per fornire le linee del contrasto alle formazioni armate. Pecchioli, è lungo qui il pezzo citato dall'archivio Cipriani, insomma, che riporta le parole di Pecchioli della riunione, eccetera eccetera. Pecchioli sprona quindi i partecipanti a non avere remore nella collaborazione con le istituzioni dello Stato, anche e soprattutto quelle repressive, sviluppando la delazione. Benché sia vero, ammette che in queste attività ci sono certo pericoli da cui guardarsi e i contratti devono essere ben governati, ma il pericolo è soprattutto l'altro, quello che si continui a considerare con ostilità le forze dell'ordine. Interviene quindi il rappresentante lombardo Borghini, spiegando che dopo l'uccisione di Custrà, l'agente di polizia ucciso durante una manifestazione a Milano, non è stato possibile né appello né sciopero di un quarto d'ora. Abbiamo ottenuto soltanto il non boicottaggio della partecipazione ai funerali. Poi qui ci fermiamo un momento, ricordiamo che comunque era operativa all'epoca la legge reale, che io non so quanti morti, che anno è la legge reale, del 75. Sì.

sono negli ascensori. Allora, torniamo ai microfoni, continuando questo lungo redazionale, ma secondo noi doveroso da parte della radio, e speriamo anche interessante. Vi ricordiamo lo 06 49 17 50 per chi volesse intervenire, come è già successo nella mattinata. Allora, si è aggiunta alle nostre la voce di un altro compagno della redazione che ha seguito, insomma, la preparazione di questo redazionale, e quindi do subito a lui il microfono. Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti e a tutte. E partiamo, cioè in realtà la trasmissione ne ha già parlato, però anch'io ho letto tutto il libro di Ferdinando Imposimato, I 55 giorni che hanno cambiato l'Italia, e quindi a partire da questo volevo fare alcune considerazioni. Allora, il libro intanto è abbastanza corposo, sono circa 300 pagine, però si legge un po' come un romanzo, perché in effetti sembra un po' un poliziesco. Questo non per sminuire quello che è stato scritto, ma per introdurre il discorso che il libro è molto convincente per alcuni aspetti, molto meno quando il giudice Imposimato si lancia in alcune tesi, anzi direi teoremi politici più ampi, che invece non sono adeguatamente sostenuti da evidenze, documenti, prove, eccetera. Quindi un giudice ovviamente in pensione è molto esperto nella raccolta di dati, prove, eccetera, e nel libro si ha un forte riscontro, perché in effetti i documenti sono centinaia e centinaia, quelli citati. E però, come diciamo, a una lettura un po' più attenta, si nota un fatto che è abbastanza comune nella letteratura politica, diciamo così, cioè che una parte, magari anche la maggior parte dei documenti, di quanto viene citato, ha un riscontro, mentre una parte magari minore ma funzionale a determinate conclusioni, questo riscontro oggettivo non ce l'ha. E questo libro non è esente da questa cosa. Forse dipenderà un po' dalla deformazione professionale, essendo io bibliotecario faccio particolarmente attenzione alle bibliografie e alle citazioni. Ma per alcune conclusioni, appunto, che tra l'altro vengono anticipate nell'introduzione da Imposimato, ma non riprese nelle conclusioni, quindi in qualche modo c'è un pochino di incoerenza in questo, la documentazione portata è molto debole. E allora vediamo quello che a me sembra il punto principale, direi, al di là di ogni ragionevole dubbio, come la formula classica, no? Cioè, quello che il libro dimostra, secondo me, è che lo Stato era a conoscenza della prigione dove era tenuto Aldo Moro. E ci sono, questo è un fatto che rispetto appunto ai numerosissimi riscontri sembrerebbe indubitabile. Altro è dire, come appunto viene la tesi, insomma, dello spettacolo teatrale da cui ha preso spunto questa trasmissione, che l'azione delle Brigate Rosse fosse sostanzialmente eterodiretta da servizi segreti, addirittura in collaborazione tra Est e Ovest. Diciamo che la cosa, oltre a essere convincente per i vari riscontri, è anche molto credibile da un punto di vista storico, cioè in una azione sostanzialmente di guerra o di guerriglia, e basta pensare anche all'epoca della resistenza italiana, esistono ovviamente forze contrapposte che tendono a far fallire o far riuscire determinate azioni. Ci sono i tentativi di infiltrazione più o meno riusciti, e quindi tutto questo rientra un po' nelle regole del gioco, no? Non c'è bisogno di aver visto i film di James Bond per rendersi conto di questa cosa. Questa cosa è un atto di accusa sostanzialmente molto forte, ma ripeto, secondo me anche convincente, nei confronti della direzione politica dell'epoca, che ebbe, insomma, come uomo forte sicuramente Francesco Cossiga, con alle spalle, poco citato ma sempre molto presente visto che era il capo del governo, Giulio Andreotti. E quindi le pesanti responsabilità di Cossiga, non si badi bene, sulla linea della fermezza, che viene assolutamente approvata dall'autore, da Imposimato, perché come ricorderà chi ha qualche anno d'età, all'epoca il dibattito era: lo Stato non può cedere perché altrimenti sarebbe il disastro per la Repubblica, non si possono legittimare politicamente le Brigate Rosse, bla bla bla. E quindi non è questa l'accusa che fa Imposimato a Cossiga, ma è quella di non aver fatto quello che era necessario, cioè una volta individuato il luogo dove Moro era tenuto prigioniero, non è intervenuto per tentare di liberarlo, e non è che ci fosse un'alternativa credibile, visto che era stata già annunciata la condanna a morte di Moro da parte delle Brigate Rosse. Quindi su questo fatto Cossiga ha sempre cercato di, ovviamente, di difendersi, dicendo che non si era mai saputo questa cosa, e quindi il libro demolisce completamente questa linea di difesa. D'altra parte mette con grande evidenza, cioè dimostra con grande evidenza l'esistenza di una trama sostanzialmente collegata alle direttive della NATO, che risale, secondo Imposimato, gli origini già negli anni 50, ma da un punto di vista operativo diventa effettiva con la collaborazione della loggia P2, con le trame di Gelli e con la costituzione di tutta una serie di nuclei operativi, di depositi di armi, di addestramento, di nuclei speciali di intervento, che appunto prendono sostanzialmente le direttive, la direzione della politica italiana in un momento di crisi come quello. Quindi la costituzione dei GIS e dei NOCS, di cui ogni volta Cossiga si vantava, nasce appunto in stretto collegamento e accordo con le direttive della NATO. In quel periodo vengono attivate le strutture Gladio, di cui lui anche ha sempre rivendicato l'appartenenza e l'implementazione. E quindi, diciamo, la seconda cosa evidente che viene fuori dal libro di Imposimato è questa eterodirezione, sì, della politica italiana, nel senso al di fuori delle istituzioni parlamentari democratiche, perché all'interno di questa eterodirezione alcuni politici, in primis Cossiga e Andreotti, sono coinvolti. E però a questo punto vediamo anche le carenze, le omissioni, le incongruenze di questo libro. La prima che salta all'occhio è l'assenza totale di qualsiasi riferimento al ruolo del PC in quel periodo, che non era stato affatto secondario, e non per ragioni di parentela tra Cossiga e Berlinguer, ma per ragioni molto più solide. E sostanzialmente la tesi, che non viene proprio esplicitata ma viene fatta capire, di un complotto per eliminare la possibilità che il PC in qualche modo vada al governo, ripeto, sempre secondo la tesi imposimato, ed essendo Moro l'uomo della DC che aveva sponsorizzato, no, il compromesso storico, eccetera eccetera, la direttiva che proviene da oltreoceano è impedire a tutti i costi questa eventualità. Quindi nel momento in cui si sviluppa l'azione del sequestro di Moro da parte delle Brigate Rosse, che voglio sottolineare che lo stesso imposimato, nonostante alcuni accenni a coinvolgimenti di altri soggetti, per esempio a militanti della RAF, di cui però non si ha un riscontro oggettivo, continua a dire che c'è una macchina di proprietà della RAF che si trova lì, che poi tra l'altro viene portata via dalle forze di polizia, tutte cose circostanziali, sì, insomma, sì, che, sì. La cosa, ecco, l'intervento dove sbarella decisamente secondo me è quando dice che l'azione del sequestro di Moro è sostanzialmente non opera soltanto delle Brigate Rosse, ma anche di tutta un'altra serie di soggetti o presenti sul posto dietro le quinte, e si spinge addirittura fino a coinvolgere il KGB. E qui, come il discorso iniziale che facevo, mentre sugli altri due punti, Gladio e individuazione della prigione di Moro, il libro è molto convincente, su questi due invece si va molto sulle supposizioni, per arrivare addirittura al comico, direi, quando si parla di questo Sokolov, studente di scienze politiche, che segue le lezioni di Moro per controllarlo per conto del KGB. Allora, credo che sia stato già detto, ora, un colonnello del KGB a 22 anni penso che sia un primato mondiale, perché non so, cioè, quando è diventato ufficiale questo a 12? Poi l'altra cosa veramente un po' risibile è che l'azione di spionaggio di questo abilissimo colonnello sia stata totalmente aperta, nel senso che lui faceva le domande agli studenti chiedendo come si sposta Aldo Moro, in quali posti va, chiaro comportamento perfetto di una spia che non vuole farsi scoprire. Quindi su questo punto, tra l'altro, è abbastanza... Non è molto chiaro perché imposimato voglia accogliere queste baggianate, secondo me, all'interno del libro, perché in fondo lui vorrebbe mettere un po', bilanciare lo squilibrio che mette sotto accusa gli Stati Uniti, la NATO e quell'apparato in funzione anti-PC più che anticomunista, e dicendo che sostanzialmente anche l'Unione Sovietica avrebbe avuto interesse all'eliminazione di Aldo Moro. Poi si parla anche qui, senza prove, di fantomatiche spie provenienti da Sofia che avrebbero saputo dell'attacco, del sequestro di Moro, eccetera eccetera. E l'ultima cosa che volevo dire per chiudere almeno questa parte è all'inizio, quando si parla, imposimato si lancia un po' in questa ricostruzione storica che fa acqua da tutte le parti, cioè vuole a tutti i costi stabilire una connessione tra l'omicidio di Kennedy e la morte di Moro. Ecco, basterebbero solo due date, 1963-1978, cioè 15 anni, che nella politica internazionale sono un'enormità, che lui quasi a forza vorrebbe mettere sotto una stessa trama, no? Che fin da allora negli Stati Uniti si era pensato, non so, forse attraverso un indovino, un astrologo, si poteva già prevedere quello che sarebbe successo in Italia e quindi chi bisognava eliminare o chi bisognava favorire. E poi magari se c'è tempo leggiamo anche qualche piccolo stralcio di questo libro. Sì, comunque questa cosa del parallelo tra Moro e Kennedy è molto veltroniana. Io non so adesso nella sua carriera parlamentare in Posimato in che corrente stava. Stava nel PC. Stava nel PC, dico magari, perché questa è proprio veltroniana. Comunque un'altra delle cose che sono importanti è appunto il motivo reale per cui magari, ed è secondo me è giusto, è vero, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista eccetera volevano che Moro non fosse rilasciato, non solo che insomma che fosse poi ucciso, perché certamente quello fu molto insomma discusso e analizzato anche all'interno del movimento all'epoca, e perché Moro vivo sicuramente, al di là delle cose che chissà che cosa avrebbe dovuto rivelare, non è che non avesse cose da rivelare, ma insomma di fatto poi non uscì niente di concreto, di sostanziale da questo sequestro, e i memoriali trovati dietro al termosifone, apposta io dico che è una storia infinita, ma insomma ricordo fra l'altro perché Moro vivo insomma sarebbe stata una mina vagante, ma questo fu anche detto se non in questi termini, e infatti se ne cominciò a distruggere l'immagine dicendo, lo ricordiamo chi insomma era senziente all'epoca, che si parlò di Moro che non era se stesso, con veramente arzigogoli e assurdi anche psicologici, che lui non era se stesso, che le sue lettere erano invece erano, per chi se le ricorda, estremamente lucide e sensate, pur essendo insomma le lettere di una persona che sapeva che c'aveva poco da vivere e che comunque nessuno avrebbe fatto nulla per salvarlo. Nel libro, per quello che ho visto sulla citazione finale, non ho potuto leggerlo tutto, l'indice dei nomi, che anche tu bibliotecario sai che è anche un segno importantissimo quando si va a leggere un libro, non viene citato Craxi per esempio. Craxi fu protagonista proprio del partito della non fermezza e cercò in tutte le maniere di salvare Moro, il Partito Socialista, che insomma non era assolutamente così, almeno cioè vedeva nel Partito Comunista, il Partito Socialista vedeva sicuramente nel Partito Comunista un possibile antagonista per certi versi, e tutto quello che poi fu invece l'elaborazione del movimento, che insomma era ancora bello, vivo e vitale, il movimento che si era espresso nel 77, che difatti comunque era lo stesso che veniva dalle lotte degli anni, della fine degli anni 60, cioè un movimento fuori dai partiti e molto molto forte, cioè situazioni, assemblee, iniziative, manifestazioni che oggi forse non riusciamo a immaginarci per chi non c'era, e che appunto fra l'altro ci fu un dibattito grosso, enorme, e questa radio viveva, è dal maggio del 77 che c'è, quindi anche questa radio fu proprio una delle protagoniste, dei protagonisti del dibattito del movimento sulla questione. Io sulla questione, sempre la figura di Moro, no? Tu prima ricordavi in quanto uomo del compromesso storico. Io prima che tu arrivassi, insomma, ho cercato un po' di delineare anche la figura di Moro, no? Cercando di smentire questa visione che si ha di Moro, perché la costituzione stessa del centro-sinistra era fatta in funzione anticomunista. L'apertura ai socialisti aveva due scopi: tenere fuori ancora la sinistra comunista dall'area governativa, del potere, eccetera eccetera, e in più sganciare i socialisti dai comunisti. E questo fu un'operazione riuscita, tant'è che il centro-sinistra fu il miglior antidoto, diciamo, verso il PC per una quindicina d'anni, dal 62 al 78, appunto, quando il PC entra ufficialmente nel governo con il secondo governo Andreotti. 76. Nel 76 già, però formalmente proprio sì. Prima l'abbiamo abbastanza illustrato, perché qui insomma io ho abbondantemente pescato, oltre che dai miei ricordi, dall'archivio Cipriani, che da questo punto di vista è una buona fonte, a prescindere da certi giudizi che ogni tanto prende, però dal punto di vista della ricostruzione dei fatti è una buona fonte. Ma per dire ancora, insomma, breve tratteggio ancora sulla figura di Moro, quando in quegli anni ti ricordi lo scandalo Lockheed, no? Antelope Gobler. Sì, ne parla Imposimato. No? E ne parla Imposimato, no? E dice Imposimato che addirittura gli Stati Uniti usano questa cosa per screditare Moro, proprio a suffragare la tesi che lo volevano più morto che vivo, per modo che non aprisse ai comunisti, e dicono e fanno trapelare il fatto che Antelope Gobler fosse lui. Poi questo viene, lui viene prosciolto il, vi dico esattamente la data, il marzo, pochi giorni prima, 3 marzo 78, la Corte Costituzionale archivia la posizione di Aldo Moro nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo Lockheed, e poi lui sarà rapito pochi giorni dopo. Ma prima, che era successo? Memorabile proprio per chi se lo ricorda, è 9 marzo 77, alla Camera dei Deputati c'è il dibattito sullo scandalo Lockheed. Il discorso di Moro, sì. Il discorso di Moro, c'erano Gui e Tanassi inquisiti, Gui democristiano, Tanassi socialdemocratico, c'era stato pure la voce di Rumor, eccetera, eccetera. Aldo Moro fa un discorso memorabile che lo trovate proprio su internet, se lo cercate lo trovate in abbondanza. Ve ne cito solo un pezzetto. A chiunque voglia travolgere globalmente la nostra esperienza, a chiunque voglia fare un processo morale e politico da celebrare, come si è detto cinicamente, nelle piazze, noi rispondiamo con la più ferma reazione e con l'appello all'opinione pubblica che non ha riconosciuto in noi una colpa storica e non ha voluto che la nostra forza fosse diminuita. Non accettiamo di essere considerati dei corrotti, perché non è vero. Abbiamo certo commesso anche degli errori politici, ma le nostre grandi scelte sono state di libertà e di progresso. Per queste ragioni, onorevoli colleghi, che ci avete preannunciato il processo sulla piazza, vi diciamo che noi non ci faremo processare. E poi però, per dire ancora chi era Moro e qual era la sua vera natura dei rapporti col PC, c'è un incontro il 5 novembre 77 tra l'ambasciatore americano Richard Gardner, in procinto di partire per Washington, che incontra Moro, che gli esprime la convinzione, secondo quanto riferirà lo stesso Gardner, quindi sono le memorie di Gardner in questo caso, dei legami e dei finanziamenti dei paesi dell'est alle Brigate Rosse, con ogni probabilità attraverso la Cecoslovacchia. E qui si apre un annoso capitolo, anche questo, insomma, avvolto un po' da parecchie nebbie. Comunque, in quella circostanza Moro afferma che il PC, qui è virgolettata la frase di Moro riportata da Gardner, il PC, non più in grado di sfruttare i vantaggi di un partito d'opposizione, cominciava a incontrare difficoltà e temere la possibilità di una futura perdita di voti. Tenendo i comunisti a metà strada, un po' dentro e un po' fuori, sarebbe stato possibile logorarli. Questa era, diciamo, se vogliamo, allora diamola quest'altra chiave di lettura, Imposimato, e chi poi da Imposimato prende spunto, no, per dire, perché qui il tentativo è quello di assolvere il PC dal punto di vista politico, non solo sulla vicenda in sé del caso Moro, che viceversa con la sua, io almeno la penso così, con la sua atteggiamento di fermezza ha contribuito a condannarlo, e quindi ci dovrebbe essere da questo punto di vista anche lui sul banco degli imputati, se parliamo di una vita umana, ma il fallimento della sua politica, perché quello che ricordavi tu delle trame, possibile che il PC non sapeva niente, ma com'è possibile che non stava al gioco? Possibile che Pecchioli, pur sapendo di tutte queste cose, che oggi Imposimato come anima bella 30 anni dopo ci ripropina che questi hanno tramato eccetera eccetera con tutte queste storie, il PC non sapeva niente, non sentiva puzza del bruciato, lui lo sapeva perfettamente, ma è stato al gioco perché voleva andare al governo, perché era strategico questo accordo, ce l'aveva in testa, e quindi se n'è completamente fregato, l'ha messo comunque da parte in secondo ordine il fatto che ci fossero tutti questi trame, interessi eccetera eccetera, e lui è andato avanti così, per cui non è assolvibile per niente politicamente, insomma, da tutta quella storia. Io dico di più, che politicamente non si potrebbe assolvere neanche nel caso contrario, cioè se veramente il PC appoggiava questo governo rimanendo all'oscuro di tutto quello che il governo faceva, dice vabbè, ma allora questi sono degli idioti, cioè non sono affidabili politicamente, quindi comunque non si salva un giudizio politico di questo partito. E senza contare che un altro aspetto è quello che comunque il PC sempre aveva rifiutato di voler considerare forze politiche quelle che si collocavano alla sua sinistra, e quindi a maggior ragione era pure facile per certi versi prendere questo atteggiamento nei confronti delle Brigate Rosse, chiamandole terroristi criminali, e la morte di Moro sicuramente avrebbe, come poi fu, avvalorato e sostenuto questo, chiamiamolo, punto di vista, e per cui non esisteva una sinistra del PC, nemmeno come, diciamo così, discettazioni filosofiche, ma tutto ciò che si collocava a sinistra del PC era automaticamente di destra, fascista e così via. E c'era la repressione di cui abbiamo parlato. Per dare insomma, a chi non è addentro, non l'ha vissuto e non si è documentato, l'idea, si fece un convegno, ricordate, no? Il 77 contro la repressione. A Bologna, insomma. A settembre. Nella Bologna di Zangheri, no? Zangheri, Zangherà, Zanghe tutta la città, in cui ci fu anche un coinvolgimento di intellettuali stranieri, eccetera, eccetera. Allora, in quella circostanza ci fu una compagna, Maria Antonietta Maciocchi, che insomma, italiana, di sinistra, eccetera, eccetera, che insomma aveva. Si era interessata di questo tema, insomma, anche lei aveva scritto, si era pronunciata insieme a Sartre, insieme a Guattari, a Deleuze, eccetera, eccetera, altri esponenti della cultura, su questa deriva autoritaria che aveva preso, che c'era in Italia e che era sostenuta dal PC. Bene, Maria Antonietta Maciocchi successivamente chiese la tessera del PC e gli fu rifiutata, perché appunto si era espressa in un certo modo. Non solo, ma ad aprile del 78 sull'Unità un editoriale attacca duramente Luigi Ferraglioli e gli altri firmatari dell'appello per la vita di Aldo Moro, quindi per dire quanto ha contribuito e come ha contribuito il PC a, diciamo, a non salvare Moro, e quindi se non l'ha salvato l'ha ammazzato, punto interrogativo, lo lascio decidere, eccetera, se ne è responsabile da questo punto di vista, per aver tentato spregevolmente di stornare la colpa dal capo degli Aguzzini e di gettarla sulle forze che difendono la convivenza civile e aver esercitato la violenza che consiste nel disprezzo della verità, nella sopraffazione morale e nella calunnia a freddo. Quindi se la presero con Ferraglioli, e il giorno dopo, in un'intervista a Panorama, Ugo Pecchioli invitava la magistratura a usare la mano dura contro istigatori e fiancheggiatori. Ricordate questo termine, fiancheggiatori, istigatori, ci siamo andati in mezzo pure noi come istigatori di un sacco di cose come radio. Questo era il Partito Comunista. Questo bisogna che sia ben presente, perché imposimato in questo caso, ex giudice, ma da testimone, è un testimone proprio non attendibile, non solo perché è stato... a un certo punto ha trovato la sua via di Damasco e si è iscritto al Partito Comunista, è stato eletto, eccetera, eccetera, ma perché proprio si è messo in testa di ricostruire la storia in un altro modo, in questo caso quella vicenda e tutto quel periodo soprattutto. Sulla conclusione di quella vicenda, poi, lo accennavi tu prima, no? Dice, se fosse stato liberato, non lo volevano più libero, ed è allora qui poi allora diventa il giudizio di un altro tipo sulla decisione delle Brigate Rosse di ucciderlo comunque. E allora qui, come si è espresse la radio, si è espresso il movimento in quel periodo con un appello, mozione che fu votato in un'assemblea qui a Roma, dicendo lo dovete liberare perché state facendo una sciocchezza sotto tutti i punti di vista, oltre che insomma eravamo contrari a prigioni del popolo, tribunali, eccetera eccetera, ma questa è un'altra storia. Cioè, queste sono poi le valutazioni politiche sull'opportunità o meno di quel sequestro, sull'opportunità o meno, sulle risultanze che ne sono venute fuori dal punto di vista proprio della crescita dei movimenti, dei risultati che si ebbero e così via, e delle conseguenze invece che si sono avute. Ma altro è appunto la tesi, no? Che tu stesso insomma riprendevi dall'inizio del libro di e dello spettacolo, insomma. Sì, a un certo punto su questa tesi c'è una sorta di riflesso condizionato che sa molto di PC in Imposimato. Si lascia scappare una cosa vi lascio il giudizio di questa cosa. Dice: non è possibile che un'azione di questa precisione, di questa potenza, eccetera, potesse essere condotta da un gruppo di gente sgangherata come i militanti delle Brigate Rosse. Ora, delle due l'una: se erano così sgangherati e quindi a questa azione non l'avrebbero potuto fare da soli, parentesi, nella ricostruzione di chi è intervenuto nell'azione del sequestro e dell'uccisione della scorta, Imposinato fa nomi di tutti i brigatisti italiani, non ci sono altre presenze, no? Ma comunque, ammesso che fossero così sgangherati, ma che tipo di Stato è? Uno Stato che sostanzialmente entra in conflitto, in guerra con questi oppositori armati per la bellezza di una decina d'anni e anche di più prima di riuscire a sconfiggerli anche con metodologie che vanno poi a colpire tutta l'opposizione, no? Quindi tutto il discorso dei pentiti, delle leggi sulla repressione anticostituzionali, se non nella forma e nella sostanza. Quindi ecco, a un certo punto parte un riflesso condizionale: non è possibile che si sia creata una situazione autonoma da quelli che sono i veri esperti, no? della violenza, i gruppi speciali, gli addestratori statunitensi, britannici, tedeschi, eccetera. Qui non sto facendo l'apologia di nessuno, ma semplicemente per dire che una delle armi del potere è quella di far credere alle masse che determinate azioni proprio non ve le dovete neanche mettere in testa, perché non è possibile, non siete in grado, non siete capaci, non potete, solo il potere, solo lo Stato ha questa capacità, no? E quindi questa smentita nei fatti doveva in qualche modo essere negata. Ma quello che chiudo questa parentesi perché mi sembrava significativa, volevo dire a proposito del piano Victor e del piano Mike, citati appunto da Imposimato, confermati anche dagli autori, a cominciare da Cossiga, anche se cerca di buttare la responsabilità sulla magistratura, ma poi insomma la commissione stragi di Gualtieri lo sbugiarda e quindi non può più negarlo. C'è un'intervista di Cossiga alla TV tedesca il 28 novembre del 93, in cui, rispondendo alle domande del giornalista tedesco, Cossiga spiega come sarebbero andate le cose se per caso, sfortunatamente aggiungo io, Moro fosse rimasto vivo, l'avessero appunto liberato. E questo sarebbe il piano Victor, con grande fantasia, V come vivo e Mike M come morto. Vabbè, allora, se fosse scattato il Moro Victor, queste sono le parole di Cossiga alla TV, alla radio tedesca, nessuno avrebbe avuto contatti con lui al di fuori di me, il me sta per Cossiga, quindi in buone mani, di uno o due magistrati e della famiglia. Lo avremmo portato in una clinica dove tutto era predisposto. Ad Andreotti la domanda viene attribuita alla frase: qualsiasi siano le conclusioni degli esperti, le condizioni della prigionia tolgono alle parole di Moro ogni autenticità morale. E poi risponde: io so chi ha scritto la frase di Andreotti, oggi non lo direi più. E poi continua: gli esperti psichiatri mi hanno detto che Moro si trovava in uno stato di depressione. Questo mi ha incoraggiato nel preferire tutte le interpretazioni favorevoli alla mia posizione di fermezza, e così, sotto l'influenza degli psicologi, nacque la valutazione che le lettere di Moro fossero moralmente non autentiche. Io ero tra i più irremovibili. Sapevo che Moro sarebbe morto, era questa la mia tragedia personale, sapevo che la nostra irremovibilità avrebbe condotto all'uccisione di Moro, di questo ero profondamente convinto. Mi era perfettamente chiaro che le Brigate Rosse volevano sfidare lo Stato e non avrebbero consegnato Moro vivo. La mia unica speranza era quella di trovare la prigione. Ecco, su questo punto contrasta un pochino con quanto detto prima. Anche perché in effetti è la parte più convincente del libro, cioè che via dei Montalcini fosse stata individuata dai servizi segreti, dai militari, da Gladio, da tutto quello che mi sembra incontrovertibile, e che abbiano ricevuto l'ordine di non agire proprio il giorno prima che poi venisse, sarebbe stato ucciso, ma questo... Però anche qui una precisazione sempre di carattere speculativo la vorrei fare. Non solo questo libro, ma evidentemente anche altre cose precedenti, insomma, appuntavano inchieste giornalistiche e così via, il fatto che la prigione fosse stata individuata. Lì, secondo quel racconto, come l'avevi visto, c'erano gente dei servizi segreti, uomini di dalla Chiesa, gente che veniva dal sud, tra l'altro arruolati di leva, insomma 30 persone, che io ho già detto com'è possibile, mi pare una follia che mandi a fare questi servizi a 30 persone di leva, insomma così, no, buttate là. Poi c'erano quelli di dalla Chiesa e c'era anche un altro servizio segreto, diciamo, o comunque apparati di sicurezza che erano. Quindi c'era un sacco di gente che controllava i montaggi. Allora, quando è venuta fuori sta storia che era stata individuata sta prigione? Ce lo racconta oggi Imposimato, qualche un altro l'ha accennato prima, ma è possibile che sta storia viene fuori 20 anni dopo, 10 anni dopo? Ma se era così vero, così eclatante, ma sarebbe venuta fuori subito? Possibile che tra tutta sta gente che ha girato l'antorno, che veramente c'è da chiedere pure come i brigadisti che stavano là non se ne sono accorti, perché dalla descrizione parliamo di decine e decine di persone a sorvegliare, qualcosa di strano uno se ne accorge, ma è tutto credibile, è tutto così semplice? A me anche questo lascia un po' perplesso, insomma, no? Vabbè, però erano sgangherati. Vabbè, però insomma è una bella guerra tra sgangherati, perché pure quell'altro andrà in 40 lì a fare tutte queste storie e ti fai notare, no? Insomma, anche il più sprovveduto qualche... Anche perché un'azione di quel genere, insomma, al di là di Imposimato, presuppone comunque una preparazione molto comunque accurata. Questa, tanto perché ci avviamo alla conclusione, quindi ognuno di noi dice la sua. Questi sono i dettagli. Certo. A me quello che premeva, perché insomma fosse chiaro, ascoltatori e ascoltatrici, era di risistemare non solo il giudizio su quel periodo, eccetera, ma diciamo correggere. Ognuno ha le sue opinioni, quindi se Ulderico Pesce e Ferdinando Imposimato hanno fatto una ricostruzione di quel periodo che può essere, come dicevi te, più o meno poliziesca, più o meno romanzata, non c'è nessun problema, ma che si voglia accreditare questo come verità storica accertata e documentata, questo no, questo non è accettabile. Dai microfoni, insomma, soprattutto di una radio che l'ha sempre, insomma, invece analizzata in maniera molto diversa. Io, se stiamo concludendo, volevo dire ancora una cosa sulla questione politica, perché parlare del PC di quel periodo in modo molto diverso da come l'abbiamo fatto noi stamattina, poi no, con le note che rinviavano le cose dette da noi, ma insomma con ricostruzioni storiche precise e documentate, è cosa ben diversa da quello che fanno appunto questi libri e queste rappresentazioni teatrali, ma perché dietro c'è ancora questo discorso che il PC di Berlinguer era cosa molto diversa. Rimpiangiamo il PC di Berlinguer, lui era sì, era diverso, e tesi fra l'altro portata avanti anche da Rifondazione Comunista, che ce l'ha fra le sue immagini sacre, quella di Berlinguer. E Berlinguer era quello dei sacrifici, quello dell'austerità, quello di tutto questo progetto del PC, di cui poi abbiamo, e questa corresponsabilità soprattutto di controllo delle lotte repressiva, di cui abbiamo ampiamente, credo, parlato stamattina. Quindi anche questo credo sia importante per ristabilire la storia come è andata. Allora, mi sembra dagli sguardi che abbiamo... Anche perché è ora. Fatta quell'ora, diceva quello, quindi noi adesso per ora vi salutiamo, e questa trasmissione sarà messa poi tra i podcast del nostro sito www.ondarossa.info, quindi anche chi non l'ha sentita dall'inizio, ne sentirà parlare, lavorare e ascoltare, potrà farlo. E vi ricordo quindi che ancora una volta che potete telefonarci allo 06 49 17 50 o scriverci a ondarossa@ondarossa.info, che questa radio vive soltanto delle sottoscrizioni di chi l'ascolta e del lavoro gratuito, ci mancherebbe, di chi